La versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari, anzi buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30, primi 55 secondi in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio, qui è la versione di Oscar per gli ascolti sia in diretta che in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, versione di Oscar, @radio24.it. Oggi la puntata è una specie di prosieguo ideale, anzi concreto, non ideale, della puntata che abbiamo tenuto ieri, qualcuno forse se la ricorderà. Ieri abbiamo presentato, spiegato la sentenza alla Corte di Cassazione, depositata il 26 novembre scorso, scusate, con la quale la Corte di Cassazione, richiamata a pronunciarsi sulla vicenda di un licenziamento di un dipendente pubblico siciliano e richiesta di pronunciarsi con chiarezza se l'articolo 18, quello in materia di licenziamenti riformato, si applicasse o meno ai dipendenti pubblici e privati, oppure nel dubbio di non volersi pronunciare se ritenesse di sottoporre il quesito alla Corte Costituzionale, vi abbiamo spiegato ieri come questa sentenza la Corte di Cassazione univocamente, senza alcuna istanza di costituzionalità, stabilisce che non c'è dubbio alcuno e che a giudizio della Corte di Cassazione, poiché ai soggetti della contrattazione pubblica compresi nel decreto legislativo 165 del 2001, cioè tutti tranne professori universitari, magistrati e militari e corpi di sicurezza, si applica lo statuto dei lavoratori, si intende che si applicano anche le successive riforme nel tempo dello statuto dei lavoratori, quindi compreso l'articolo 18. Una pronuncia inequivoca. Ieri vi abbiamo spiegato, pochissimi se ne erano resi conto, solo il Sole Italia Oggi, ieri nel pomeriggio i giornali hanno iniziato a pubblicare, a rilanciare questa sentenza della Corte. Ieri ve l'abbiamo spiegata e in serata però di ieri il ministro della riforma, anzi scusatemi, della pubblica amministrazione Marianna Madia ha precisato a nome del governo che il governo chiarirà nei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione che il Jobs Act e i suoi decreti attuativi non, ripeto, non si attuano, non si applicano ai dipendenti pubblici. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare alcuni di voi a dire: ma come, il governo smentisce la giurisprudenza, visto che la sentenza ci avete spiegato che è proprio chiarissima, è limpida, inequivocabile? Ecco, neanche questo è vero. Allora, per onore delle cose, qui finisco la mia introduzione, poi abbiamo un ospite a cui cedo la parola, bisogna riconoscere che nel tempo, negli anni, la Corte Costituzionale più volte si è pronunciata su temi che hanno a che fare con la parificazione di trattamento tra dipendenti privati e dipendenti pubblici e in numerose sentenze, riprese poi anche da sentenze delle sezioni civili della Cassazione, ha affermato che persistono le valide ragioni per le quali nel nostro ordinamento, malgrado il decreto legislativo 165 del 2001 sulla cosiddetta privatizzazione dei contratti dei pubblici dipendenti, tuttavia persistono delle buone ragioni per le quali il dipendente pubblico resta soggetto a un regime speciale in ragione dell'articolo 97 della Costituzione, che ne stabilisce l'autonomia, l'indipendenza, da cui dipende anche l'assunzione per concorso, aggirata per moltissime centinaia di migliaia di attuali dipendenti pubblici e così via. Ma nello stabilire questi principi, la Corte Costituzionale ha sempre detto sussistono ancora questi elementi e quindi il legislatore, Parlamento, Governo, può stabilire in legge che questo o quell'istituto dei contratti dei lavoro, eccetera, eccetera, può non valere per i dipendenti pubblici invece che per i privati. Quindi la Corte Costituzionale ha lasciata aperta la porta sempre al fatto che il legislatore, governo, Parlamento possano, però a quel punto lo devono mettere in legge e spiegare, porre dei limiti alla parificazione tra dipendenti pubblici e privati. Poiché la Corte di Cassazione si è pronunciata su riforme dello Statuto dei Lavoratori che, quando avvenute sia la prima nell'articolo 18 con il Ministro Fornero sia quella del Jobs Act, non hanno mai visto nei testi scritti né nella legge delega né nei decreti attuativi della riforma dell'articolo 18 mai visto scrivere esplicitamente che non si applicava ai dipendenti pubblici, la Corte di Cassazione, in coerenza quindi alle sentenze della Corte Costituzionale, ha detto no, si applica automaticamente. Il governo ieri sera ci dice per bocca della Madia: a questo punto noi diremo che non si applica. Questo non toglie che poi anche questa decisione del governo potrebbe essere soggetta a un giudizio incidentale della Corte Costituzionale, ma resta il punto, come vedete, resta il punto che il governo col Jobs Act non disse esplicitamente in legge che non si applicava ai dipendenti pubblici, lo disse in interviste. Oggi, di fronte alla sentenza della Corte di Cassazione, dice che invece lo farà per legge, e però non si esce da questa contraddizione con regimi diversi. Aggiungo che questa volta la diversità dei regimi non riguarda solo le procedure di licenziamento con la reintegra giudiziaria che cade rispetto ai casi precedenti e quindi resta solo per i licenziamenti legittimi, mentre per quelli economici o per giustificato motivo personale si attua la risoluzione del contratto con l'indennizzo economico. Se ci pensate, le modifiche introdotte sono molto più ampie che questo. Il contratto a tutele crescenti, per esempio, perché riservarlo solo ai neoassunti del mondo privato e non anche a quelli del pubblico impiego? Voi direte, ma quelli hanno vinto il concorso. E che vuol dire? Le tutele crescenti servirebbero anche nel pubblico impiego a valutare nel tempo delle tutele crescenti, prima che poi sia previsto, come è previsto, la sua trasformazione contratto a tutele più forti, di valutare l'adeguatezza del profilo professionale del pubblico dipendente assunto. Comunque è una grande questione politica, è evidente che ieri avete sentito che la CISL era favorevole all'interpretazione della Corte di Cassazione, e nel PD non la pensano tutti allo stesso modo. In queste ore, sia ieri che oggi, si è pronunciato su questa materia il nostro ospite, che ha la particolarità di essere anche sottosegretario al MEF, non è del PD, leader di Scelta Civica, Enrico Zanetti. Io lo ringrazio di essere con noi e gli chiederei di spiegare come la pensa su questo combinato disposto tra la sentenza della Cassazione e le dichiarazioni ieri del ministro Madia. Grazie di essere con noi, Enrico Zanetti. Grazie a voi e buonasera a tutti. Ma guardi, Scelta Civica ha sempre avuto una posizione molto netta circa il fatto che dal nostro punto di vista ci deve essere una perfetta equiparazione su quel fronte tra lavoro dipendente pubblico e lavoro dipendente privato, anche perché altrimenti cade proprio il senso stesso della riforma, che era quella di armonizzare e avvicinare in un'unica disciplina mondi che altrimenti continuavano a essere estremamente diversi tra gli ipertutelati e quelli senza alcun tipo di tutela. Quando ci fu il dibattito all'epoca politico, l'iter legislativo, in verità un comma che espressamente diceva che non si applicavano le novità al pubblico fu inserito proditoriamente verso la fine, e noi ci adoperammo proprio per eliminarlo, nella piena consapevolezza tecnica, in questo forse un po' più consistenti di altri, che togliendolo per l'appunto in assenza di un'espressa esclusione, a quel punto il principio si applicava. È indubbio che ci sono componenti significative della nostra maggioranza e naturalmente del governo che sono comunque determinati a mantenere questa distinzione. Noi non siamo affatto d'accordo, quindi sicuramente quando si ritornerà a dover affrontare con norma di legge il tema cercheremo di portare avanti le nostre ragioni. Devo dire che in generale comunque noi di Scelta Civica dal ministro Madia ci aspetteremmo francamente di sentire parole chiare e rassicurazioni sul fronte che finalmente si comincino a rendere concretamente attuabili i licenziamenti per gravi inadempimenti disciplinari, come ad esempio le vicende, penso, di Sanremo, piuttosto che dover ascoltare rassicurazioni dove si dice tranquilli che lasceremo tutto come sta. Penso invece che sia altro il messaggio da dare, ovviamente in un contesto in cui ai dipendenti pubblici che lavorano e si impegnano bisogna dare riconoscimenti maggiori di quelli che stiamo dando. Ecco, non vorrei onestamente che ci sia qualcuno che preferisce fare il patto, vi diamo poco ma in cambio vi tuteliamo in maniera anche eccessiva pure quando sbagliate. Noi siamo convinti che ai dipendenti pubblici vada riconosciuta una giusta remunerazione, ma quando ci sono inadempimenti disciplinari, a casa. Non c'è dubbio. Allora, quindi lei ribadisce l'impegno politico: quando verrà quella norma da parte del governo, il Parlamento si vedrà. E anche l'altra volta, conti fatti, la Cassazione ci rende giustizia. Siete stati decisivi. Ci ritroveremo con la stessa determinazione, consapevoli che è una battaglia che all'interno del governo e della maggioranza ci vede abbastanza solitari, però crediamo che con noi ci sia gran parte del paese, compreso gran parte del paese nel pubblico impiego. No, ma infatti la posizione della CISL ieri apposta, noi l'abbiamo rilanciata perché a questi microfoni è stato in equivoco il segretario della funzione pubblica della CISL. Ma a questo proposito, ieri, per chi fa il mio mestiere e tentava di capire tra ambiente PD e ambiente di Palazzo Chigi, prima che parlasse la Madia, con l'interpretazione autentica nel tardo pomeriggio, ci si faceva notare. Però dovete anche capire il governo, perché il governo già c'ha questa grana di fronte del rinnovo dei contratti pubblici obbligati dopo 5 anni di stop per via della sentenza della Corte Costituzionale, e in legge di stabilità non abbiamo potuto mettere più che 300 milioni con i sindacati che chiedono miliardi, e quindi aggiungere benzina sul fuoco, quando poi in realtà questa nuova disciplina finirebbe per attuarsi solo alla nuova infornata di pubblici dipendenti nuovi post riforma, cioè praticamente a quelli appena messi dentro al ruolo nella scuola, significa regalare al sindacato altre carte polemiche, e quindi Renzi non ci pensa. La domanda che le faccio è questo: ma di fronte alla posizione netta dei sindacati sui 300 milioni in legge di stabilità per il rinnovo di tutti i contratti pubblici, in realtà il governo come pensa di fare? Perché è un fatto oggettivo che con quei soldi non si rinnovano i contratti, e quindi bisogna comunque fare i conti con le risorse che ci sono. Gli anni passati erano anni in cui il blocco è stato sistematico. Quest'anno è indubbio che si riesce a dare soltanto un segnale e non di più. D'altro canto, la scelta che ha fatto il governo è quella di fare una legge di stabilità estremamente direzionata sul fronte del calo delle imposte, senza nessuna contropartita di aumento di altre imposte, proprio per dare dei segnali chiari e netti. Sono scelte, ovviamente questo non vuol dire che siano meno importanti altre voci, altri capitoli, però è meglio fare delle scelte chiare e precise piuttosto che aggiungere comunque magari somme non decisive e annacquare le scelte che si stanno facendo. Io ne approfitto per avere i microfoni, perché poi ci deve lasciare tra pochissimo, per chiederle anche un punto di vista, insomma il più possibile impegnativo, visto il ruolo che lei svolge nel governo, su quello che i giornali hanno scritto stamattina in relazione alla proposta per la quale non si può opporre, anche per cifre di pagamento molto basse, il pagamento attraverso carte da parte degli esercenti, pubblici. Alcuni quotidiani oggi, per esempio Corriere della Sera pagina 3, dicono sì, però gli esercenti hanno delle buone ragioni nel difendere la vecchia normativa che consentiva loro di dire no, non è che obbligava a dire di no, quindi, però consentiva loro di dire di no, perché tra oneri di installazione dei POS e canoni che si pagano alle piattaforme di pagamento e agli intermediari bancari, in realtà, andando a vedere, il Corriere fa delle cifre, abbozza delle cifre, si tratta di migliaia di euro ogni anno. Ecco, da questo punto di vista, poiché è una proposta parlamentare, non è una proposta che il ministero ci ha messo le mani dentro, tecnicamente come si fa a far passare una norma simile che è favorevole al consumo e alla tracciabilità, ma dall'altra parte però può produrre oneri aggiuntivi a segmenti della distribuzione che sono già sotto stress dal suo punto di vista? Ma guardi, intanto ha ben sottolineato che è un emendamento parlamentare, se per quello ci sono anche emendamenti parlamentari sempre di area maggioranza, un'area maggioranza ben definita, che ad esempio chiedono anche di riportare il limite del contante dai 3.000 ai 1.000, quindi voglio dire, così come questi ultimi emendamenti vi posso rasserenare sul fatto che non saranno accolti, potete ben capire che in un governo che sceglie la linea dell'abbattimento degli obblighi, convinto che la moneta elettronica vada senz'altro sostenuta, ma semmai con logiche di premialità piuttosto che di vincolo sulle scelte, capite bene che anche questo tipo di emendamenti che pongono sanzioni agli esercenti se non hanno il POS e quant'altro non rientrano esattamente nella linea che stiamo portando avanti. Legittimo ovviamente presentarli, verranno discussi, il Parlamento è sovrano, ma per fortuna il Parlamento ha anche una solida maggioranza che condivide l'azione di questo governo. Comunque ci conferma che allo Stato su quella norma non c'è l'ok, per così dire, da parte del MEF, perché si creano davvero dei problemi oggettivi, perché in altri paesi, lo sappiamo, l'abbiamo sempre detto, la logica premiale è appunto quella di lavorare, e lavorare non con l'accetta, perché non lo decide il governo per decreto a quanto devono scendere i canoni dovuti, però lavorare con attenzione attraverso gli intermediari finanziari e così via, per vedere appunto di far diminuire i costi di traslazione per le operazioni. Gli emendamenti parlamentari sono tanti, non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci all'interno del MEF tra tutti. È evidente che questa non è una priorità del governo, se no l'avremmo fatta noi come norma. Nell'istante in cui la presenta il Parlamento la esamineremo. Io sono abbastanza convinto che però quella che è sicuramente la linea del sottoscritto di Scelta Civica, cioè che un emendamento del genere, ringraziamo, lo leggiamo con piacere e lo restituiamo a chi l'ha presentato, possa essere poi la linea dell'intero mezzo. Un'ultima cosa brevissima, abbiamo letto stime per le quali i proventi dalla volontà di disclosure si avvicinerebbero già oramai non ai 2 miliardi che prudenzialmente il Ministero aveva cifrato, ma almeno al doppio, a 4 miliardi, sono stime attendibili? Sono stime attendibili, sì, con la componente interessi credo che la soglia dei 4 miliardi verrà leggermente scavallata, quindi direi un ottimo risultato per una misura che non dà anonimato, fa pagare il 100% delle imposte, fa pagare anche un pezzo di sanzioni, insomma se, credo che sia il più chiaro testimone di come evidentemente sul fronte della lotta all'evasione, senza tante parole come piacciono ad alcuni, ma con i fatti abbiamo creato i presupposti per cui in passato, insomma, nascosti i capitali salta fuori, anche se gliel'abbiamo resa tutt'altro che comoda. Credo che 10 anni fa una proposta del genere, anziché 100.000 istanze, avrebbe raccolto 100.000 sberleffi, non a caso facevano dei condoni da 5% o anche meno. Sì. Anche perché questo significa l'acquisizione in pianta stabile poi alle basi imponibili. Assolutamente, ecco, non essendoci l'anonimato. Insomma, credo sia un'operazione, ripeto, molti amano invece sentire dire ogni 2 minuti la lotta all'evasione, la guerra, morte agli evasori, e credono che questa sia la lotta all'evasione. Questa è la politica fatta sulla lotta all'evasione, la politica ideologica sulla lotta all'evasione. Noi non abbiamo nessuna voglia di fare questo tipo di avere questo tipo di approccio, ma nell'istante in cui, dopo aver fatto tutta una serie anche di accordi internazionali con i paradisi fiscali, avanziamo una proposta onerosa di questo tipo, il risultato è che la gente, anche se non c'è la carota ma il bastone di tassazione piena e nessun anonimato, salta fuori comunque. Credo di non dover aggiungere altro, quanto è più efficace la nostra azione rispetto ad altri. No, ma 100.000 soggetti è già un numero di fronte al quale obiettivamente bisogna riconoscere che gli interventi estivi con le precisazioni su quello che ancora non era chiara nella misura hanno determinato l'accelerazione finale rispetto alle poche migliaia di istanze. Allora grazie al sottosegretario Zanetti, e poi dopo la pausa di un minuto andiamo sulle vostre telefonate. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:50 minuti. Come avete sentito, anche nel governo c'è chi non è d'accordo su quanto dichiarato ieri in serata dal ministro Madia, che ha detto va bene la sentenza di Cassazione, ma noi intanto metteremo per iscritto che il nuovo articolo 18, il contratto a tutela crescente, tutte le riforme del Jobs Act non si applica ai dipendenti pubblici. Vedremo come va avanti la cosa, ma intanto raccogliamo un po' ancora di vostre opinioni. Cominciamo con Nicola che ci chiama da Treviso. Prego Nicola. Sì, buonasera dottor Giannino. Allora, io volevo portare la mia testimonianza per il Job Act, no? Io ho 43 anni, 2 bambine e un mutuo. Vengo assunto a maggio su un'azienda privata, resto per 6 mesi con contratto determinato, allo scadere del 6° mese si passava indeterminato, e l'azienda mi dice che non mi può assumere e mi lascia a casa dal giorno stesso, cioè dal giorno dopo, perché mi scadeva il contratto, dicendomi che hai costi alti e non può assumermi. Ora io mi chiedo se, per carità, sulle statistiche dicono che il Job Act ha portato a tante assunzioni e viva Dio, va bene, per carità, va benissimo, però se poi possono lasciarti a casa il giorno stesso che scade il contratto e non ti assumono più, voglio dire, non siamo per niente tutelati. Allora, Nicola, il mio compito, oltre che ascoltare, è quello di ricordare a chi è in ascolto che io non so chi vi dica altri numeri. Vi invito a leggere con attenzione, non a fidarvi di me, leggete con attenzione, sono diverse pagine con molti grafici, il punto della più recente release rilasciata ieri sul mercato del lavoro dall'Istat. E troverete che per quello che riguarda i contratti a tempo indeterminato, si chiamavano così per me Job Act, adesso si chiamano a tutela crescente dopo il Job Set, sul totale degli occupati italiani, che sono 22.400.000 più o meno, i dipendenti, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, accumulando le due diverse definizioni, sono passati da fine dicembre 2014, erano 14.526.000, alla fine di ottobre di quest'anno erano 14.527.000. L'aumento in 10 mesi di riforma del Job Set e di massiccia decontribuzione di oltre 8.000 euro a ogni contratto nuovo, non aggiuntivo, a ogni contratto nuovo, compresi quelli come quello del nostro ascoltatore firmato e poi fatto scadere, era di 8.000 euro di decontribuzione triennale. Allora, se abbiamo speso questi miliardi per ottenere 1.000 occupati a tempo determinato in più in 10 mesi, secondo me c'è qualcosa che profondamente non va. Ieri vi hanno detto anche che l'occupazione e la disoccupazione è scesa all'11% qualcosa, verissimo, però tendono a dimenticarsi che questo avviene a fronte negli ultimi 2 mesi dell'aumento sia della diminuzione, perdonatemi, degli occupati e dell'aumento degli inattivi. Quindi le cifre dicono questo, poi ognuno può liberamente interpretare come vuole, ma le cifre dicono questo. Francesca da Verona, come la pensa? Buonasera, no, io volevo intervenire riguardo all'applicazione della sentenza sul pubblico impiego. Io dico che sarei perfettamente d'accordo nell'equiparazione completa del pubblico impiego al privato, ma i segnali che vengono dagli ultimi 10 anni a questa parte sono tutti molto contraddittori e comunque non fanno che penalizzare i pubblici dipendenti, perché abbiamo il contratto fermo da 5 anni, di più. Ecco, poi siamo pubblici dipendenti con l'esclusività del rapporto, non si possono esercitare nessuna attività, alle pensioni non si può fare più nessun altro lavoro, e in tutti questi anni, intendo, ci siamo assoggettati a delle regole che ci impongono valutazioni costanti con obiettivi all'inizio dell'anno, valutazioni semestrali, valutazioni finali, almeno questo avviene nel mio ente. Ecco, forse avviene nel suo ente più che generalmente, avviene però... puntualmente con obiettivi e valutazioni. Ma infatti, Francesca, quando ieri il segretario della funzione pubblica CISL Faverin, qui ospite, ha detto no, noi ci stiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, ma a quel punto che sia equiparazione piena, esattamente facendo alcuni degli esempi che sta facendo lei, perché a quel punto, se di equiparazione si tratta, deve essere un'equiparazione piena, quindi stop al fatto che i governi possono decidere per 5 anni che i contratti si sospendono, stop a valutazione a metriche diverse sul salario di merito e così via. Quindi in questo è evidente che secondo me lei ha ragione, però... Allora, per Nicoletta da Brescia il tempo non c'è più e me ne scuso, ma vedete che ci torniamo sopra perché la faccenda non finisce qui, come avrete capito. Intanto continuate su Radio 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 insieme a Alessandro Milan con Attenti a noi due.